la commedia inutile, ti leggo in fondo al cuore quello che vuoi nascondermi, sta scritto in fronte a te. Su, non mentire, dimmelo, che spento il nostro amore, tanto che vale illudersi, tutto finisce, ahimè. Addio, mia bella signora, lasciamoci così senza rancor, al destino che vien rassegnarsi conviene, sospirare, piangere, perché tu sei passata incognita, un dì sul mio cammino, io senza nulla chiederti t'accolsi in braccio a me, confusi in un sol palpito il mio col tuo destino. Ora mi dici vattene, vedi non t'amo. Addio, mia bella signora, lasciamoci così senza rancor, al destino che vien rassegnarsi conviene, sospirare, piangere, perché perché mi guardi pallida con quella smorfia strana, temi che possa ucciderti e vendicarmi qui, ma penso fra le lacrime a mamma mia lontana, non voglio farla piangere, e poi per chi? Va pure, segui pure il tuo destino, saprò dire al mio cuor, è finito l'amor, la chimera.